Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Mancano veramente poche ore al voto, di cui abbiamo parlato tanto nelle prossime elezioni. In tanti paesi si è già votato, noi siamo un po' gli ultimi, forse perché ci teniamo molto ai nostri weekend, quindi non votiamo durante la settimana. E sappiamo insomma qua già alcuni risultati di altri paesi, come l'Olanda, dove c'è stato un insperato insuccesso, lasciatemelo dire, degli euroscettici, e invece vedremo insomma come andrà qui. E allora cominciamo con qualche piccola anticipazione, poi naturalmente su Radio 24, sul sito e anche sul Sole 24 Ore di lunedì potrete vedere i risultati più o meno definitivi, però quindi seguire la cronaca, ma vediamo le ultime analisi pre-voto. Bernard Guetta, per esempio, Guetta in realtà, che è un giornalista francese, ha scritto per Libération un articolo che si intitola Il futuro dell'Unione nelle mani degli elettori, e vi leggo le prime righe. Riconciliare gli europei con l'Europa sarebbe facile. Insomma, Guetta è ottimista, diciamo. Non è un sogno, neanche un'utopia. Basterebbe che la prossima Commissione europea si riprendesse i poteri che le assegnano i trattati e di cui si sono appropriati 28 leader nazionali, e che rispondesse alle aspettative degli europei portando avanti progetti comuni che tutelino l'interesse dei cittadini del continente. Prima di tutto, scrive Guetta, la prossima Commissione dovrebbe occuparsi della reindustrializzazione dei paesi dell'Unione, assolutamente necessaria considerato il fallimento ormai evidente della nuova divisione internazionale del lavoro avviata negli anni Ottanta. Ora capite che questo naturalmente è un articolo scritto per un giornale dichiaratamente di sinistra come Libération, da un giornalista che non ha mai fatto segreto delle sue posizioni, però questo tema dell'industrializzazione riguarda moltissimo l'Italia e la Spagna, un po' meno la Francia, e però negli ultimi mesi, negli ultimi anni si è capito come un po' questa economia dei servizi, che sembrava dovesse salvarci tutti e portarci in una nuova età dell'oro, in realtà non ha avuto così tanto successo, da qui appunto la necessità, secondo Guetta e tanti altri, di politiche pro-industria. Su Internazionale, che trovate in edicola da ieri, c'è in realtà la copertina dedicata alle elezioni, e il titolo della copertina è proprio All'assalto dell'Europa. All'interno trovate un lungo articolo tradotto dal Guardian che si intitola All'assalto di Bruxelles, e si cerca, dove si cerca anche con fotografie molto ravvicinate, dei primi piani molto ravvicinati, molto a effetto, tra l'altro fotografie a cura di fabbrica, quella think tank creativo di Benetton Group, sono fotografie di giovani europei che cercano di spiegare le loro posizioni. Abbiamo detto prima, uno dei grandi temi è l'euroscetticismo e il successo, speriamo non così forte, perché sembriamo, poi se si ragiona bene si capisce tutti che non sarebbe un bene per nessuno smantellare l'Europa o indebolirla nelle sue istituzioni. Ecco, gli euroscettici, e non solo naturalmente, il Guardian in questa traduzione che trovate su Internazionale fa un po' una panoramica di tutti i partiti. Passiamo alla Spagna. La Spagna è un altro paese dove si incrociano molto i temi nazionali con quelli europei, perché lo ricordiamo, non è così scontato, insomma, noi veramente, che ne dicano alcuni leader, viviamo queste elezioni come un test per la politica italiana, per i partiti italiani. In realtà sono elezioni europee, però anche in Spagna i due partiti principali si giocano molto del loro futuro con queste elezioni. Allora scrive El Mundo che ci sono alcuni temi tutti interni, come una polemica sulle quote rosa che potrebbe incidere sul voto, ma al di là di come andranno le europee, scrive Il Mundo, sul tavolo politico spagnolo rimarranno tutti i principali problemi ancora irrisolti. Non so se vi suona familiare: in primis la disoccupazione ancora alta nonostante una timida ripresa economica, e la crisi catalana che il governo di Madrid continua a ignorare e che minaccia di scoppiare nel prossimo settembre. Perché? Perché appunto in settembre i nazionalisti dovranno decidere se forzare la mano su un referendum per l'indipendenza della regione oppure no. A proposito della campagna elettorale italiana, c'è un articolo un po', se volete, anche almeno per me è sempre triste leggere queste critiche così dure sul nostro paese, sulla stampa straniera, in questo caso è la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jörg Bremer ha scritto un articolo che si intitola Italian Christ um sich selbst, che vuol dire proprio quasi si chiude in se stessa, perché chi osservasse con attenzione i temi, i toni degli ultimi giorni di campagna elettorale probabilmente non potrebbe che essere d'accordo. Scrive Scrive il giornalista tedesco, la campagna per le europee in Italia ha assunto toni molto aggressivi, con scambi di insulti e accuse sempre più pesanti tra i leader dei principali partiti. Eppure, scrive ancora la Faz, il risultato del voto sembra contare solo alla luce delle dinamiche nazionali e le questioni legate all'Unione Europea sono state lasciate in secondo piano. Gli italiani continuano a ignorare quasi tutto della politica europea, mentre i politici si attribuiscono il merito dei vantaggi dell'integrazione e scaricano la colpa dei problemi su Bruxelles. Dalla Stampa, sempre di lingua tedesca, vi segnalo un articolo uscito invece su Der Standard, che è un quotidiano viennese, e qui si passano purtroppo in rassegna molti degli insulti, quegli insulti che la Faz così lasciava soltanto intuire, qui invece vengono proprio riportati. E allora scrive Der Standard: Berlusconi paragona Beppe Grillo a Hitler e Stalin, Matteo Renzi viene definito Boy Scout Licio Gelli, il suo partito è il regno schifoso della peste rossa, Grillo insulta Renzi chiamandolo genia menzogna, e qui naturalmente il riferimento, lo sappiamo tutti, è al famoso leader degli ultra napoletani, che definisce le europee come il voto più politico di sempre e proclama l'ennesima volta la morte della Repubblica. Piovono pesantissimi insulti nella rabbia artificiosa della campagna elettorale. Ecco, questo è proprio un po' l'aspetto che viene colto da molti quotidiani, questa estrema aggressività e anche questa mancanza di dibattito sui veri temi europei. Uno di questi temi, per esempio, è quello importantissimo dei fondi della Comunità Europea, che noi spesso non riusciamo a utilizzare, e allora di questo si occupa, pensate un po', Euronews, che ci spiega, ma bisogna andare a pescare questa notizia su internet, non ci viene data dai nostri candidati alle elezioni, che l'accordo con l'Italia sul programma di utilizzo di questi fondi strutturali per un periodo, pensate che va dal 2014 al 2020, quindi sono proprio misure che potrebbero influenzare molto il futuro del nostro paese, almeno in alcuni settori, perché stiamo parlando di 32,8 miliardi di euro. Ebbene, questo accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine del mandato dell'attuale Commissione Europea, cioè entro ottobre. Su questa scadenza si è detto fiducioso il commissario alle politiche di coesione Johannes Hahn, che ha annunciato gli accordi già raggiunti con Polonia e Grecia, si aggiungono a quello con la Germania e forse ci potremmo appunto arrivare anche noi. Non trovate, sono domanda retorica, che sarebbe questi temi veramente importanti, dire per esempio appunto quali sono i modi migliori per utilizzare questi fondi strutturali anziché dedicare così tanto tempo a insultarsi l'un l'altro, una cosa che non ho colto solo io e sono sicura tantissimi di voi, ma hanno colto appunto anche i giornali stranieri. Ma cambiamo un pochino argomento, non concentriamoci solo ed esclusivamente sulla campagna per le elezioni. La Süddeutsche Zeitung, per esempio, ha pubblicato una lunga intervista a Jens Weidmann, che è il presidente della Bundesbank, la banca centrale europea, che ha spiegato, ha gelato in realtà le attese per un nuovo taglio del tasso di riferimento dell'area euro, che in questo momento è al minimo storico dello 0,25%. C'è un incontro però fissato, di cui il presidente della Bundesbank ha parlato, è fissato per il 5 giugno a Francoforte, e in questo incontro si dovranno tenere in considerazione le posizioni naturalmente e magari le ultime dichiarazioni del presidente della BCE Mario Draghi, che in realtà già all'inizio di questo mese di maggio aveva detto che avrebbero potuto esserci degli aggiustamenti. La Stampa tedesca si è occupata anche di un altro tema di cui ci siamo occupati anche noi e che forse potrebbe essere uno dei temi in discussione nel prossimo Parlamento europeo, nella prossima Commissione, che è quello della difesa europea. I tedeschi infatti sarebbero sempre meno a favore di un impegno internazionale nelle aree di crisi del mondo, e quindi non si potrebbe contare per esempio sulla Germania per la costruzione di un esercito europeo di cui si parla da molto tempo. Sarebbe però più importante, secondo i tedeschi, e quindi probabilmente molti politici ascolteranno queste esigenze dei loro elettori, sarebbe più importante impegnarsi più che militarmente in operazioni di pace, che poi naturalmente sono tutte da definire, perché vediamo anche quante difficoltà abbia l'ONU, che comunque ha una sua piccola forza, i famosi caschi blu, ma che poi alla fine non riesce a essere efficace quando davvero i conflitti scoppiano, pensiamo soltanto alla tragedia del Ruanda. Un'ultimissima segnalazione ve la faccio dalla stampa turca. Ricorderete tutti, ne ha parlato tanto anche Radio 24, la tragedia nella miniera. Ci sarebbero in Turchia altre 400 miniere con questi rischi enormi per chi ci lavora, e sarebbero appunto tutte da rivedere sul fronte della sicurezza. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Buon voto a tutti, ci sentiamo sabato prossimo. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus. We'll be right back.